Devo fare subito una puntualizzazione geografica. Lo spettacolo si svolge lungo una linea immaginaria, dall'Inghilterra al Sudafrica, passando per Milano-Venezia, Gerusalemme il Cairo e Addis Abeba Kampala. Dice, perché questa scelta? Semplicemente perché io quello conosco e quello mi sento di poter raccontare. Lo spettacolo è un puzzle. Del puzzle alcuni pezzi, quelli che io ho scelto, ve li racconto. Altri li ho dovuti scartare per mancanza di tempo. Ma di un tassello non potevo fare a meno. Questo. Salute. Se devo partire per un viaggio sull'acqua, non so perché, a me viene subito in mente Venezia. Io amo Venezia perché per volontà dei suoi abitanti è diversa, fuori dal comune. Eppure le sue porte sono sempre aperte. Sarà perché di porte ne ha solo due: il mare, di là, e quel braccio d'asfalto che la collega alla terraferma. Se ti fermi su quel braccio, è come essere sospesi tra il giorno e la notte. Se lo fai in auto è una roulette russa, ma se ci vai in bicicletta e ti fermi, guardi di là e vedi la storia. Affonda, sì, affonda, ma si aggrappa a quel mare che da sempre la sostiene. Poi tu prova a girare lo sguardo, è lì che non capisci. Ed è lì che voglio iniziare questo viaggio, perché io per andare a Venezia vengo da quella parte. Vengo dal Piave, quello alto, della montagna, quello delle valli a strapiombo e delle strettoie. La strada costeggia il fiume per 130 km da Sappada a Crocetta del Montello e intorno alti colli verdeggianti sormontati di qua dalle prime cime alpine, il gruppo delle Marmarole e l'Antelao sopra Pieve di Cadore, il Sassolungo e il Talvena che cingono Longaron e poi giù, giù, fino alle Dolomiti Bellunesi e a quel cuneo, il Grappa, che par che se lo cavi vengono giù tutte le Alpi. E dall'altra parte? Di là, della carreggiata, che ti segue quasi a volersi premurare che tu non sbagli strada, un letto grande, ampio, ciotoli, massi, lastre di pietra, un letto contenuto da possenti argini. A cosa servono quegli argini, mi domando io. Se guardi il Piave all'altezza di Val do Biadene, non capisci perché in provincia di Treviso abbiamo tanto a cuore gli argini. Sì, sono fatti bene, è regola d'arte, ma a cosa servono? Per il fiume. A me? A scuola hanno sempre insegnato che i corsi d'acqua si dividono in ruscelli, torrenti e fiumi. I primi fanno un po' quel che gli pare, i torrenti hanno regime alternato di piene e di magre, e i fiumi sono corsi perenni che non vanno mai in secca. Citazione. Il Piave si scrive fiume e si legge torrente. Ma non capisci perché. Se vai in giù verso Venezia, non capisci il motivo di quel letto grigio. Perché le valli laterali sono messe a spina di pesce e tu non riesci a guardarci dentro se non dallo specchietto dell'auto. Ma se ti giri e alzi un poco lo sguardo, eccolo lì il Piave, quello vero, non il torrente, ma il fiume, è là, tra le montagne, 100 metri sopra il suo letto naturale, trattenuto dal calcestruzzo di 20 dighe che lo rendono il fiume più artificiale d'Europa. E non sta fermo, scorre, rotola, saltella dentro chilometri e chilometri di condotte che tu, spettatore, non vedi, perché nascoste nella roccia da mani che per decenni hanno scavato le Dolomiti, per il nostro benessere, dicevano. Quelle condutture assorbono 98 metri cubi d'acqua al secondo per usi agricoli, sostengono 37 prese per l'innevamento artificiale e alimentano 121 centrali elettriche che danno energia anche a quell'inferno che sta di qua del braccio d'asfalto, Porto Marghera. E tutto si può dire tranne che quello abbia fatto il nostro benessere. Ma se di qua è brutto, di là. Di là. Di là è peggio. Di là. Una coltre bianca, spessa, fitta, banco di nebbia si chiama. Ah, per nascondere serve! Ma anche se non vedi, che importa? Usa il naso, prova a metterti in ginocchio vicino all'argine. La senti la puzza? È il Po, è il cuore d'Italia che pulsa, che lavora, ma non pompa sangue, pompa veleno. Le 3.000 discariche abusive di rifiuti tossici, le fabbriche chimiche e siderurgiche, le infiltrazioni di cromo esavalente e cloruri nelle falde, gli scarichi di metalli pesanti, detersivi e liquami di fogna, hanno lasciato in eredità un debito incalcolabile che si estende da Marghera a Mantova e su fino a Torino. E un primato del quale son sicuro noi ci vantiamo la più alta concentrazione di maiali d'Europa. E chi ce l'ha? Ce l'abbiamo noi maiali, noi ce li abbiamo! 7,5 milioni di suini, l'80% dei maiali italiani vive nella Valle del Po, mangia mais, beve acqua e defeca nel bacino del fiume. La pianura è la porcilaia d'Europa e succhia acqua come un'idrovora, 16.000 litri per un chilo di carne di maiale. Non è chiaro se beva di più un allevamento di maiali o una centrale idroelettrica. Se poi conti che l'energia serve anche a pompare l'acqua per far crescere il maiale, allora capisci che le 272 centrali del bacino del Po, con i suoi maiali, le sue industrie e le sue piste da sci, stanno mettendo a rischio la vita di un intero territorio. O forse è già morto, ma non ce ne siamo accorti. Eppure le notizie ci sono. Il Nilo ha perso il 90% della sua portata. Il Rio Grande, lungo 3.000 chilometri, scompare dopo 1.300, mentre il Colorado e il Murray non raggiungono più il mare. Arrivano fin lì e poi, secco, un'ansa vuota. Resta solo quel letto grigio, come grigie sono le 66 milioni di tonnellate di calcestruzzo della diga Hoover negli Stati Uniti, lì dove è cominciato tutto. È il 1935. E in soli 3 anni un gruppo di piccoli appaltatori, di vedute piuttosto ristrette, è riuscito ad alterare per sempre la natura delle vie d'acqua. È un po' come se di punto in bianco, sulla strada di casa, qualcuno mettesse una colata di cemento alta decine di metri. Cosa fai? Ti metti con lo scalpello a picchiettare il cemento? Ti incazzi, dai, è chiaro, ti incazzi, cominci a urlare, ti fai sentire da chi ti ha tolto il diritto di abbracciare tuo marito o di sedere in poltrona a vedere la partita. Ma se sei un salmone dell'Alto Pacifico, se sei un pesce che vive dell'acqua, non hai diritto di replica. E guardi la diga immensa di fronte a te, e sai che là sopra una volta c'era casa tua, che lì nascevano i tuoi figli e ne sarebbero nati altri, sai che per migliaia di anni i tuoi antenati hanno fatto sempre quella strada, e provi a saltare che non si sa mai se è un'illusione ottica, provi a vedere se magari quella è una crepa nel calcestruzzo, se forse riesco a buttare almeno un occhio a quel che sta dall'altra parte, ma è troppo alta e tu non hai braccia per aggrapparti alla diga, non hai gambe per aggirarla, non hai forza per abbatterla. E allora non ti restano che gli occhi per guardare e piangere. Nilo, in antico semitico, significa valle del fiume. Risalendo il Nilo dal suo delta, si incontrano in successione il Cairo, per definizione metropoli inquinata, caotica e sovraffollata. Poi viene il deserto, quello orientale, dove si trovano i grandi siti egizi, Tebe, Luxor, Karnak. Da lì si risale fino ad Aswan. Superato l'abitato, c'è un'ansa che gira a destra e... Dov'è? Cosa? Come cosa? Il monumento a Ramsete II, Abu Simbel, dov'è? Era lì fino a ieri e adesso c'è quella diga alta 100 metri e larga 4 chilometri. Chi è stato? Nasser. Da solo? Prima del 1960 ad Aswan c'era una vecchia diga larga 2 chilometri con 180 chiuse che garantiva il deflusso di buona parte dell'acqua e tratteneva la quantità necessaria per gli anni di siccità. Poi hanno deciso che Abu Simbel non valeva una diga, infatti lo hanno solo spostato, ma l'Egitto sì, l'Egitto valeva una diga. E allora hanno aggiunto altri 2 chilometri di calcestruzzo, bloccando quasi completamente le acque del fiume, decretando dopo 5.000 anni, in mondovisione, il suicidio in diretta dell'Egitto. Con cosa si uccide uno Stato? Se fossimo in Italia, probabilmente con la pizza, per indigestione. Ma l'Egitto, con cosa lo ammazzi? Con il limo. Il Nilo non è altro che l'esofago d'Egitto, la diga di Aswan è l'epiglottide. Tu prova ad accumulare avanzi di pizza a livello dell'epiglottide, dopo un po' non respiri più. Dietro la diga di Aswan è la stessa cosa, solo che lì non si accumula pizza, si accumula limo. E il limo per il delta del Nilo è nutrimento vitale, perché permette l'attività agricola e la pesca delle sardine, che senza nutrimento scioperano. Da oggi niente più sardine, da oggi solo fertilizzanti e sale. Quel che non è riuscito ad Alessandro Magno, a Cesare e agli inglesi, lo hanno fatto la guerra fredda, un epiglottide e un uomo di nome Nasser. La diga è la porta per l'Africa nera. Di là del lago si estende il Sudan, la terra in cui fiorirono gli imperi di Kush e Meroe, paludi e deserti che si alternano fino a Khartoum. A Khartoum bisogna scegliere una biforcazione, o il Nilo bianco o il Nilo azzurro. Nozioni di base. Quello bianco è più pianeggiante ma lungo, quello azzurro è più corto ma pendente. Dove nasce il Nilo bianco? In Ruanda nasce. Ma noi ci fermiamo poco prima, dove si è deciso di piantare un cippo che indica la sorgente fittizia del Nilo. È appena fuori la città di Jinja, in Uganda. Il luogo è bellissimo, ma ora a noi non interessa. Noi prendiamo un'auto, un fuoristrada 4x4, e imbocchiamo alla statale 109 verso il confine col Kenya. All'altezza di Ganga giriamo a sinistra in direzione di Mbale. Arrivati alla rotonda di Mbale, prendiamo a destra verso Sironko. Superato il villaggio, la strada si restringe e dall'asfalto si passa alla terra battuta. E terra battuta vuol dire buche. Buche e villaggi dai nomi impronunciabili: Muyembe, Namalu, Kabilatuk, Nabilatuk, Lorenge Duat, e poi ancora buche. E buche. E buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, non è un disco rovinato, è una giostra in mezzo alla savana. Buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, buche, scatenata. Immensa. Là, in fondo, pochi picchi che danno solo un lontano ricordo di orizzonte. Lì c'è il monte Napak. Qui dietro, alla nostra destra, il monte Kadam. Laggiù il monte Moroto. Ferma! Per dove si va? Quattro strade che convergono nello stesso punto. Quattro strade tutte uguali. Polvere e buche. Attorno, aiuole naturali piene di spine. Sotto, terra rossa arida. Cos'è? Caramoggia! Il nome stesso lo dice. 360 gradi di siccità. Per 80 chilometri da quella parte, 80 da quella, da quella, da quella. Tutto uguale. Come capisci per dove si va? Guarda la carta. Non sono segnate neppure le strade. Chiedi a un passante. In mezzo alla savana, ascolta il vento. Ah. È là, è sotto il monte Moroto, è lì che stiamo andando. Sali in macchina, accendi il motore, ingrana la marcia, sgomma, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vacca? Vacca? Vacca? Vacca? Vacca? Vacca, vacca, vacca, vacche, vacche, un mare di vacche, un oceano di vacche che attraversano la strada e ti guardano con quell'aria da... Ti sei perso, caro? E io penso che se ci sono le mucche deve esserci anche l'erba, e per l'erba serve l'acqua. Così scendo dall'auto e vado a appoggiare la mano sulla terra nuda. Caldo, secco, arido, brucia, boia se brucia, come cresce l'erba qui? E se non c'è erba, cosa mangiano le mucche? Spine? Poi faccio per rialzarmi e non mi accorgo che dietro di me ci sono dei sassi e inciampo, cado e per poco non finisco in un buco. Senza fondo. Io prima non l'avevo visto, ma i sassi sì. E non avevo capito a cosa servono quei sassi. Perché laggiù ce ne sono altri? E altri lì, e lì, e lì. Cos'è emergenza? Come emergenza? Quando c'è emergenza non è permesso pensare, solo agire. Così poi ti tocca mettere i sassi, altrimenti le vacche finiscono dentro i pozzi. Chi ha sete va dissetato, chi ha fame va sfamato. Bravi, grazie, bravi, grazie, bravi, basta. Finiamola di fare gli ipocriti. Chi è che almeno una volta nella vita non ha pensato, guarda che i poveri disgraziati che muoiono di fame, cosa avrà mai fatto per meritare questo? Come cosa avrà mai fatto? Chi ha fatto cosa? E siediti che ti racconto, mi dice. E io... Io mi siedo, non so dove, ma mi siedo, e non ho il tempo di accennare il movimento che dalla penombra spunta una ragazzina con uno sgabello in mano. Grazie, alla cara Noi. E attacca. È tutta colpa dei pozzi. Prima ci muovevamo con le mandri. Le vacche trovavano l'erba sempre fresca, e se la vacca può mangiare, noi siamo salvi. La mattina andavo alla fonte, spostavo un po' la terra e l'acqua sgorgava naturalmente. La fonte sgorga secondo natura. Il pozzo lo metti dove vuoi tu, anche dentro casa se ti pare. Quello chiamate sviluppo. Pensavano che la vita fosse una freccia puntata in una sola direzione, ma si sbagliavano. A causa dei pozzi, la transumanza delle bestie è decaduta a favore della stanzialità. Questo ha prodotto lo sfruttamento dei pascoli, aggravando la desertificazione. La vita non è una freccia, è una bilancia che devi tenere sempre in equilibrio. Se si rompe l'equilibrio, l'acqua scompare, l'erba non cresce, la vacca non mangia. Voi lo chiamate sviluppo. E mi mette tra le mani questa lettera. È datata 20 febbraio 2008. E io non riesco a togliermi dalla testa l'idea che sia un po' come voler esportare la democrazia con le bombe. Dopo un anno sono tornato a Moroto, in Caramoggia, e sono andato a cercarlo nella sua baracca, ma non c'era più. Davanti la baracca, una lunga fila di persone aspettava con una tanica in mano. Si chiamava Ilokol Michael Lotaruko. E io non sono più tornato in Caramoggia. Cosa c'è qui sotto? Come fai a capire se sotto i tuoi piedi è vuoto o pieno? E se è pieno, di cosa è pieno? Terra, acqua, fuoco. E se è vuoto? Per capire cosa c'è sotto i nostri piedi si usa un georadar, uno strumento a impulsi elettromagnetici. Se le onde fanno così, vuol dire che sotto c'è terra. Se fanno così, c'è acqua, dai, chiaro. Se le onde non fanno, o corri veloce o te ne vai con nonchalance. Si chiama Hashem, vive a Hebron, in Palestina. Hebron è una città strana. Da una parte è araba, lo vedi, lo senti, è viva il mercato, le strade intasate dai taxi, i fornai con quel profumo di pane e dolci che lo senti anche in mezzo allo smog. Le strade da questa parte fanno tutte così, confluiscono verso il basso nella zona del mercato. Il mercato di Hebron incarna le due facce della città. Tu entri che sei libero ed esci dalla parte opposta che sei in galera. È una porta il mercato. Passata la porta, la città si divide. Sotto araba, sopra israeliana. In mezzo, reti. Reti di separazione. Il muro lo utilizzi per separare verticalmente. Se lo fai in orizzontale, tocca mettere le reti. Grandi ali forate che passano da un lato all'altro della strada. Hashem è lì, da un lato della strada. E gli dico, vieni! E mi dice, aspetta. E gli dico, vieni! E mi dice, aspetta. E gli dico... Dopo 40 minuti riesce a passare e ci avviamo verso casa. Le prime cose che noti sono lì. Una è sul tetto, una grande cisterna di quelle per raccogliere l'acqua. L'altra, a non più di 10 metri, è una torretta di avvistamento israeliana, dentro due militari. Uno è un ragazzino, ha un'arma in mano e ci fissa da quando siamo entrati nel suo campo visivo. Io lo guardo, mi viene istintivo, anche lui mi guarda, lo guardo, mi guarda, lo guardo, mi guarda, poi sento una mano che mi tira via e fa, vedi? E indica la cisterna con un gesto. Io osservo la cisterna e immagino quel che fa il militare alle mie spalle e capisco che Hashem non pensava potesse sparare a me, ma alla cisterna, che nella parte superiore è già piena di fori, che se cerchi il punto dove i due buchi si allineano, vedi la luce del sole dall'altra parte che batte sui tetti di Hebron, e su ogni tetto c'è una cisterna per l'acqua che ha due buchi che si allineano, che se ci guardi dentro vedi la luce che batte sui tetti di Hebron, e su ogni tetto c'è una cisterna per l'acqua che ha due buchi che si allineano, che se ci guardi dentro vedi la luce rossa del mirino di un'arma puntata anche solo per scherzo sul tuo petto. E pensi, qui sono tutti matti, mamma, voglio andare a casa, aspetta! Prima di scappare, segui il tubo. Il tubo che parte dalla cisterna. E io lo seguo. Lungo la casa, poi nel giardino accanto alla vite, passa sotto il muro di cinta e costeggia un prato pieno di ulivi. Una scaletta in mattoni e arriva alla strada, poi si infila sottoterra puntando dall'altra parte. E io vorrei andare a vedere se di là continua o se è solo scenografia e si ferma sotto la strada. Ma so che se lui esce, non lo faranno rientrare. E allora leggo. Leggo che Hebron ha un fabbisogno idrico di 25.000 metri cubi d'acqua al giorno, ma dalla Macarò, la Compagnia Israeliana delle Acque, ne arrivano solo 5.500. I cittadini arabi di questa zona devono quindi comprare l'acqua dagli abitanti connessi alle linee israeliane, conservandola nei serbatoi. Perché? Perché il governo di Israele può negare l'autorizzazione a possedere un impianto idrico, revocare una licenza senza spiegazioni? Perché i suoi abitanti hanno a disposizione l'82% dell'acqua e i palestinesi 10 volte meno? Come puoi esprimere su un palco questa disparità? Io lo farei così, con una linea che sale e scende. Sale e scende, sale e scende, sale e scende. Il minibus va dal Khalil, Hebron, ad Al-Quds, Gerusalemme, la città santa, il centro del mondo. E per arrivarci sale e sale sulle colline, poi scende giù nelle valli. Sale e scende, sale e scende. Quando sale arranca, fa fatica, è diesel. E allora tutti i passeggeri si piegano in avanti come a volerlo aiutare. Ma quando sei in cima, respiri, è ventilato, intorno è verde, le case bianche brillano al sole. Par bello qui, ma dura poco. La strada subito riprende a scendere. L'autista mette folle per risparmiare e nel cambio di pendenza tutti i passeggeri inarcano la schiena all'indietro e punta i piedi sul tappetino, ma sono tranquilli loro. Il movimento viene istintivo, glielo leggi negli occhi che quello è parte della quotidianità. E allora mi rilasso anch'io. E prima che riprenda la salita, giro lo sguardo al finestrino perché si avvicina a un centro abitato. Case, grigie, scrostate, ammassate una sull'altra, macchine arrugginite, strade polverose, non c'è traccia di verde, non c'è raggio di sole, sono già le 10, perché siete ancora all'ombra? E in quel momento l'autista ingrana seconda. Eppure vivono sulla stessa terra. E sotto quella terra c'è un mare d'acqua, una falda enorme localizzata per i due terzi entro i confini palestinesi. Perché tu puoi scavare fino a 800 metri e io solo fino a 140? Perché tu puoi far fiorire il deserto e io non riesco neppure a lavarmi i denti? Perché io vivo sopra e tu sotto. Non è cattiveria, è geografia. Ma dato che la geografia è fatta di confini, io preferisco stare di qua del muro. E da qui, guardare oltre, una sera di fine settembre, saranno state le 22, in una piazzola di sosta, in mezzo al nulla. Vicino a me Pietro, poi Wael, il cugino, il dottore Lo Sguercio, a guardare un reticolato nel buio. Anche quello è Al-Jidar, il muro. Ma qui la vista non è sbarrata. Per quello ci siamo venuti di notte a fari spenti, perché vedi meno, o meglio, tocca quasi immaginare. Guarda, quello è il villaggio, noi siamo venuti da lì. I villaggi hanno le luci e li vedi anche di notte. Lassù c'è l'antenna della televisione e qui sotto passa il confine. Faccio un po' di fatica, ma ci sono dei lampioni a illuminare il reticolato. Ma quando mi fa, vedi laggiù? Quella è Gaza. Io faccio finta di aver visto, incomincio a fissare un punto a caso nel buio e muovo la testa, mentre lui continua e dice che sotto la striscia c'è una delle tre falde acquifere della regione. Tre falde? Aspetta, io so che la prima è sotto la Cisgiordania. Ora scopro che la seconda è sotto Gaza e se la matematica non mi tradisce, tolte le prime due, ne resta una sola. Ma non ho il tempo di ragionare troppo, perché lui prosegue a raccontare di come l'acqua pompata a Gaza sia il doppio di quella che refluisce nella falda, causandone l'abbassamento. Di come durante il suo ultimo assalto Israele abbia distrutto parte degli impianti di trattamento delle acque. Quelle non trattate, ricche di inquinanti, vengono quindi scaricate a mare. E il mare vede la falda che si abbassa e ne approfitta, si infila sotto la costa e così a Gaza consumano un cocktail fatto per un terzo di acqua potabile perché di falda, un terzo di acqua salata perché di mare e un terzo di acqua di fogna perché di fogna. E si ferma. Io respiro profondo l'odore della notte e mi par quasi di sentire la puzza di quell'acqua che sale dai pozzi e viene portata dalla brezza verso di noi, di qua del muro. Puzza di fogna, è vero, ma da qui profuma di libertà. Poi si volta e mi guarda. Io capisco che mi guarda e capisco che lui ha capito che io sono ancora lì che cerco di intuire se Gaza sia di qua o di là del colle. Ma non dice nulla e respira profondo. be water sacred, sir. The blood of Eki mother her. For reflection filling to green masterine and the world cradle, so I purify. Listen, Amnibi, the life giver through her mother's veins. Hear my sorrow, hear my pain. In the river's rush, rain. I'm come to be your grandchildren's dream. Listen, daughters, what I mean. Listen, I'm Nibi, the life giver through her mother's vein. Oh, keepers of the water, hear my cry, for the springs that flow through the heart of a king, hear I say. Oh, listen, I'm Nibi, the life giver through her mother's vein. Oh, listen, I'm Nibi, the life giver through her mother's vein. Questa è una storia di latitudine e longitudine. Questa è una storia di un secchio e di una tessera magnetica. È la storia di Mary e David. Ma questa è soprattutto la storia di un tubo che non c'è. Lo spazio vuoto di un tubo che separa il bello dal brutto, il pulito dallo sporco, il sano dal malato. È un tubo e un secchio. La vita è soltanto un tubo e un secchio. Non sono ubriaco, lasciate tempo al tempo. Prima scena. C'è un uomo che fissa una parete senza guardarla. È la parete di una cella, e lui sta lì in piedi, su una sedia, con una corda al collo, dietro le sbarre del carcere Johannesburg, Sudafrica. Quell'uomo si chiama David Shesi, una moglie e 8 figli, cresciuti nel quartiere periferico di Kuala Zulu Natal, dove vendeva frutta e verdura. David è stato denunciato perché ha rubato. Ha rubato acqua per i suoi 8 figli. Seconda scena. Una finestra aperta al terzo piano di un edificio. La luce accesa, fuori è buio. Sotto, la penombra della periferia di Birmingham dopo il tramonto. Alla finestra c'è una donna, un foulard in testa. Si volta da un lato e dall'altro della strada, in attesa che sul marciapiede non passi nessuno. Quando è libero, quando anche in lontananza non si vedono sagome umane, si china, prende un secchio di latta e con appeal britannico svuota il contenuto sul marciapiede. Piscio che schizza sul muro, la merda imbratta il selciato, carta igienica vola via portata dal vento sul parabrezza delle auto in sosta. Terza scena. Afa. 14 uomini si muovono lenti sotto il sole rovente da una casa all'altra. 14 uomini. Ogni uomo 40 porte. Ogni porta un secchio. Ogni uomo 40 secchi. 400 secchi bucati, arrugginiti. Su ogni secchio un nome e un numero. Un nome e un numero per ogni famiglia di Mbalenhle, Mpumalanga, Sudafrica. Un fazzoletto sul viso per non sentire il fetore delle feci che tracimano dai secchi, che zampillano dai buchi. Mosche. Che cosa hanno in comune l'impianto di smaltimento rifiuti umani di Mbalenhle, la finestra dalla quale Mary getta piscio in strada perché non può permettersi uno sciacquone, e la corda alla quale sta morendo David? Questa. Una tessera magnetica. Mr. Kenneth Clark, cancelliere del governo britannico, la stringe tra le mani, sventolandola di tanto in tanto per lenire il caldo che gli appiccica la camicia, mentre il governo del Nuovo Sudafrica, il primo dopo l'apartheid, lo scorrazza avanti e indietro lungo un'enorme arteria, convinto che quell'uomo sia lì per dare una mano al Sudafrica che vuole rinascere. Avanti e indietro, avanti e indietro, sempre sulla stessa strada, avanti e indietro. Mr. Clark vuole così. Da un lato, una schiera di villaggi residenziali protetti da un muro bianco, sormontato dalla scritta Armed. Oltre il muro, ville, villette, prati all'inglese irrigati automaticamente, e un susseguirsi di campi da cricket, campi da tennis, campi da golf. Il muro corre per chilometri, e per chilometri sul lato opposto un continuum di baracche e fogne a cielo aperto. Clark ondeggia il capo, passando con lo sguardo da un lato all'altro della strada, come Mary dalla sua finestra di Birmingham. Poi l'auto si ferma, dietro un palco allestito sul lato delle baracche. Clark scende e si avvia verso le scale, ma prima di salire nota che sotto il palco c'è un canale che parte da lì e attraversa tutta la carreggiata fino al lato opposto, quello del muro bianco. Sospira. Poi si volta verso lo stuolo dei ministri che gli cede il passo e in inglese stretto fa «Stupid ignorant blacks!». I ministri si guardano attoniti e un ricordo non troppo lontano gli balena in testa, ma solo per un attimo. Clark sale sul palco, alza la tessera in aria e con fare imperiale attacca «Privatization has been at the heart of public sector reform in Britain». La privatizzazione è stata al centro della riforma del settore pubblico in Gran Bretagna. «Can what we have done there be exported to South Africa?» Può ciò che abbiamo fatto lì essere esportato in Sudafrica. A quel punto la testa di Clark riprende a ondeggiare. A destra e a sinistra. A destra e a sinistra, a destra e a sinistra, e definitely yes, British business can help the poor to escape from poverty. E dalla folla si leva un fragoroso applauso. Talmente forte che il buco sotto la strada incomincia a franare, il palco si inclina in avanti, Clark inizia a slittare sul posto e tra il pubblico qualcuno che ha capito tutto pensa o lui o il Sudafrica. Se volete sapere come è andata a finire, inserite la tessera magnetica con la banda rivolta verso il basso. Digitate il codice PIN, selezionate la quantità d'acqua da erogare, posizionate il contenitore nell'apposito comparto. A quanto sta oggi? 4 centesimi al litro. Chiedete a Mary o a David come è andata a finire. Chiedetelo ai 14 scaricamerda di Mpumalanga. Cosa separa la vita dalla morte lungo quell'arteria? 200 metri. 200 metri di tubo che non c'è. C'è il buco, il cancelliere ha detto stupidi ignorant blacks. Tu l'acqua da lì a qui non la porti. Chi l'ha detto? Clark. No, dai, Clark, mi serviva solo per raccontare la storia. Dietro chi c'è? Dietro c'è Veolia, multinazionale dell'acqua. Veolia sa che in quelle baracche non c'è possibilità di rientrare dei costi d'allacciamento. E allora non lo fa, non lo mette quel tubo. Non connette il bello col brutto, il pulito con lo sporco, il sano col malato. Non conviene. E quindi? Quindi compri Coca-Cola, l'acqua della Coca-Cola. Arriva ogni mattina con il camioncino in recipienti da 5 litri, pagati 15 volte l'acqua che sgorga dai rubinetti dell'altro lato della strada, dietro il muro bianco. This is market discipline. It will help the poor to escape from poverty. E l'Italia? C'è sempre la speranza che ci si dimentichi di casa propria. Gli altri stanno messi male, ma noi no, perché la televisione non ce lo dice. Come sta l'Italia? Chi? E gli italiani? Io non sono italiano, io no. L'Italia come sta? Ah, l'Italia! 150 anni di sano umorismo. Ecco cosa c'è rimasto. Come fai a chiamare Italia quel braccio di terra in mezzo al mare? Cioè, i casi sono due, o cambi nome alla penisola o cambi nome ai suoi abitanti, perché l'Italia non è più degli italiani e gli italiani non sono più dell'Italia. Ecco, l'avevo detto io, lo sapevo, è colpa della Lega. No, La Lega qui non c'entra. Il punto è un altro. L'Italia non esiste più, perché mentre noi pensavamo alla Lega, ci sono stati i saldi di fine millennio e qualcuno si è comprato il paese. Le isole sono andate alle grandi banche. Banca Italia, ovvero sempre le grandi banche, si è presa le città. I mari al Canada, il tacco alla Libia, i fiumi alla Russia. La punta alla Banca Mondiale e i monti alla BCE. La Fiat sappiamo tutti chi se l'è presa e quel che è rimasto se lo sono spartiti la Cina e pochi privati. Ad esclusione della provincia di Napoli e della Valpadana, che nessuno le ha volute. Puzzavano troppo, han detto. Perché comprare uno Stato? Uno Stato lo compri per spremerlo e guadagnare. Poi, quando è quasi da buttare, lo rivendi. A chi? Ai cittadini dello Stato medesimo. Ah, gli italiani non sono più dell'Italia, l'Italia non è più degli italiani, ma la puoi sempre ricomprare. Anche a rate. E i diritti? Quelli sono optional, li paghi a parte se te lo puoi permettere. Se dovete comprare uno Stato, assicuratevi che abbia due caratteristiche, abbondanza d'acqua e cittadini assetati. La Banca Mondiale in questa operazione è maestra. Per decenni ha privatizzato il settore idrico nel sud del mondo, in cambio di aiuti per lo sviluppo e per coprire il debito. Infatti, oggi, quegli stati non sono più dei loro cittadini. Sono della Banca Mondiale, dell'FMI, del WTO, del GATT, del MAI, sigle, solo sigle. E io non so più con chi me la devo prendere. E allora cerco di capire. E leggo che la Banca Mondiale è formata da 184 paesi membri, il cui potere di voto è dato dall'importanza della loro economia. Le decisioni vengono quindi prese da Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Gran Bretagna e negli ultimi anni Cina, Russia e Arabia Saudita. Attraverso la banca queste nazioni, con i soldi dei cittadini, comprano debiti di altri stati e azioni di società private. Dice: voglio giocare in borsa. Ce l'hai un'assicurazione? Cosa mi consiglia? Futures, bonds, UAP, ETF, CDF, stock option? Comprati un paracadute, caro. Vorrei investire, ho dei soldi da parte, ma non voglio rischiare. Bruciali nel camino. Non c'è alcun rischio se non quello d'incendio. Cosa mi consiglia? Che devo fare? Se volete un business sicuro, buttatevi nell'acqua. 403 miliardi di euro l'anno. Il miglior settore dove investire per guadagnare. La chiave del successo? La domanda non è soggetta all'inflazione, alla recessione, ai tassi di interesse e al cambiamento del gusto. L'acqua serve come l'aria. Non è un televisore, non è un'auto né un telefonino, è vita. E quale miglior sicurezza di guadagno se non quella di farsi pagare per la vita, di speculare sulla vita? Quanto è quotata in borsa la vita di un operaio? E quella di un insegnante? Di una commessa? Di un impiegato? Le scommesse sono aperte. Fate il vostro gioco, puntate, signori e signori, carta vince, carta perde. Giocatevi la vita, giocatevi il futuro, spot! Se hai dei risparmi, punta sull'acqua. L'acqua è vita. È un po' come il principio dei vasi comunicanti, dove tutti possiedono tutto. Solo che i tutti sono sempre meno e l'Italia non è fra questi pochi. Certo, ci sono italiani noti, ma l'Italia è svenduta. O quantomeno la stanno svendendo. Sono più di 800 gli enti locali indebitati con le banche. Quegli enti, quei comuni, quelle province non sono più Italia. Fondi sovrani di Kuwait, Cina e Abu Dhabi sono interessati a finanziare infrastrutture nel nostro paese. Quelle opere, quelle strade, quei palazzi, quei ponti non sono più Italia. La gestione dell'acqua nella capitale se la sono spartita tra gli altri Fiat, Impregilo e Banca di Roma. Quell'acquedotto, quei tubi non sono più Italia, sono Cina, Emirati Arabi, sono banche, fondi privati. E se non sai più di chi è il paese, come capisce chi appartiene alla sua acqua? Allo Stato, alla nazione, alla comunità locale? L'acqua in Basilicata a chi appartiene? E nel Friuli? Alla regione, alle province? E quella del Piemonte di chi è? È un diritto o un bene? E se è un bene a chi appartiene? Ai cittadini, ai marchigiani, ai milanesi, ai romani, ai sardi, ai liguri, ai toscani? Ecco. Questo resterà, quando avranno tolto anche le ultime gocce d'Italia alla sete degli italiani. Nomi. Soltanto nomi, su una carta. E magari, accanto a ogni nome, quei tre puntini che stanno a indicare sito di interesse archeologico. O chissà, forse il luogo di una grande battaglia.